coppia. Miti e verità dello sport di Dario Ricci. C'è una data nella storia degli sport motoristici che segna una svolta, un momento che apre una nuova via, un nuovo sentiero, che ancora oggi è in gran parte inesplorato. Non verso l'Olimpo, dove risiedono gli dei dello sport, ma verso la cima dell'Etna, in Sicilia, si arrampicavano con il loro rombo le vetture dei partecipanti alla decima Catania Etna in quel settembre del 1955. Tanti i campioni in gara, ma a trionfare un talento inatteso e sorprendente, come recitano le cronache dell'epoca. È l'onorevole Russo a dare la partenza alle 85 macchine che si contendono la vittoria in questa corsa al vulcano, che supera con un balzo velocissimo oltre 2000 metri di dislivello. La strada etnea, modificata nelle curve e nel fondo, consente di percorrere non brevi tratti ad elevata velocità. Maria Teresa De Filippis, unica donna in gara, abbasserà tutti i primati, battendo anche il record stabilito l'altro anno dall'asso Pietro Taruffi. Suggestiva cornice ai circa 40 km del severo percorso formano boschetti di bassi ulivi, bizzarramente inframmezzati da cumuli di lava giacente da secoli ai bordi della strada. Velocissima, al volante della sua Maserati, la baronessa De Filippis staglia vittoriosamente il traguardo a 107 di media oraria. Gli amici entusiasti la festeggiano. Fu questa forse la sua vittoria più prestigiosa. Ma Maria Teresa De Filippis, napoletana di nobile famiglia, la vera impresa l'avrebbe compiuta qualche anno dopo, correndo addirittura in Formula 1, prima donna nella storia nella categoria regina. Era il 1958 quando la De Filippis prima tentò, senza successo, di qualificarsi per il Gran Premio di Monaco, per poi prendere parte ai Gran Premi di Belgio e Portogallo e alle qualificazioni del Gran Premio di Monaco del 1959, sempre al volante di una Maserati. Insomma, una straordinaria pioniera, scomparsa a 89 anni pochi giorni fa, dello sport in rosa, in un mondo prettamente maschile, e che così raccontava la sua eccezionale avventura motoristica. Resterò sempre la prima donna ad aver partecipato ad una gara di Formula 1. Allora veramente si è rischiato. Però io ho amato veramente le corse. Fangio era come un padre per me, quello che a me mi ha proprio messo nella passione corse. Now for the helmet, Mr. Filippis, the only girl in Grand Prix racing. Sono orgogliosa di quello che ho realizzato, ma non ci sarei mai riuscita senza l'aiuto di Fangio e di tutto il team. La De Filippis di fatto ha aperto la via alle donne pilota. Dopo di lei in Formula 1 l'ex sciatrice inglese Divina Galizia, la sudafricana Desiree Wilson e le altre italiane Lella Lombardi, che andò anche a punti nel Mondiale 1965, e Giovanna Amati nel 1992. Un personaggio straordinario che oggi vogliamo ricordare a Olimpia con due ospiti che ben conoscono il mondo dei motori di ieri e di oggi. E allora saluto subito un'emula di Maria Teresa De Filippis. Grazie per essere oggi ospite di Olimpia, Michela Cerruti, pilota, 28 anni, romana, protagonista dell'ultimo mondiale in Formula E con il team Trulli GP. Ben trovata Michela. Grazie mille, grazie per l'invito. E ben trovata a Olimpia Gianni Cancellieri, storica penna e voce del giornalismo sportivo motoristico. Piacere di esserci. Allora Michela, penso che l'esempio della De Filippis sia stata una grande fonte di ispirazione anche per te. Hai mai avuto occasione di incontrarla? Guarda, io sono stata molto fortunata perché nel 2011 io non correvo da molto, perché in realtà la mia prima stagione era stata nel 2010 e nel 2011 l'avevo incontrata perché ero andata a vedere il Gran Premio di Monza. In quell'occasione mi era stato presentato Bernie Ecclestone, che era con questa signora, io in realtà non sapevo che fosse lei, e ti dirò, essendo della stessa identica dimensione di Ecclestone, li avevo scambiati per fratelli, non sapevo se Ecclestone potesse avere una sorella o meno. Poi invece ho scoperto essere lei, e questa donnina piccola piccola, io mi lamento che ero bassa in macchina, ma immagino lei, E quindi ovviamente ci hanno presentate e ci avevo scambiato queste due parole, era stato molto emozionante perché piccola piccola, ma insomma si vedeva che era una donna con grande forza. Gianni Cancellieri, facciamo invece il punto sulla De Filippis pilota. Che talento era? Per quanto riguarda il suo talento di pilota, non è riuscita a esprimerlo compiutamente nella Formula 1 perché aveva una macchina che insomma non le consentiva di fare grandi prodezze, si è rotta molte volte e quindi, mentre invece negli anni precedenti con le Sport, salendo dalle piccolissime fino alle due litri e oltre e facendo parte della squadra ufficiale Maserati, lì aveva dimostrato di, come diceva lei, di andare forte e di andare forte come gli uomini, era una sua battuta. E ripercorriamo anche Gianni la sua carriera, Formula 1 certo, ma anche altre gare, ci dicevi. Come aveva scoperto la passione per i motori? Raccontava che appunto è cominciata con una scommessa, lei da ragazza si occupava di ben altro, figlia di una famiglia nobile e ricca di Napoli. Aveva la passione dei cavalli, ma non dei cavalli vapore, diceva, quindi ha fatto dell'equitazione, poi guidava naturalmente e scommise con i suoi fratelli, tutti e due hanno avuto qualche episodio di agonistico e quindi se ne intendevano un po' di guida, dicevano no, tu non ci sai fare, uno, e l'altro invece diceva sì, ci sa fare. Allora lei intervenne, prese la licenza e con la Topolino di famiglia andò a fare la corsa in salita Salernitana, Salerno Cava dei Tirreni, e vinse la classe 500 della categoria turismo, quindi dimostrando subito che insomma un po' di manico ce l'aveva sicuramente. E siamo nel 48 quando lei ha 22 anni, dopodiché sente di poter fare di più e comincia, si può permettere, di comprarsi via via delle vetture sport sempre più potenti e maggiori di cilindrata. Passa alla 750, alla Jaur, all'Urania, poi alla Oscar 1100 e infine approda, come abbiamo detto prima, alla Maserati 2000, che è quella che le ha dato le maggiori soddisfazioni sulle piste e sulle strade. C'è poi la gemma della Catania Etna del 1958 che abbiamo rivissuto insieme. Era ed è ancora insomma rimasta una grande corsa in salita molto impegnativa, così che lei si è vinta a tempo di record, prima si era piazzata negli anni precedenti, la conosceva bene, ma a tempo di record adesso vuol dire che è andata proprio veramente forte, e lì appunto era con questa A6 GCS, che è un nome ufficiale, ma insomma la Maserati 2000, come la chiamavamo tutti, e, di cui è stata una delle grandi interpreti, insomma, veramente, lei faceva quello che voleva con quella macchina lì, e insomma non era facile starle davanti, ecco, questo è sicuro. Michela Cerruti, grazie a Gianni Cancellieri, stiamo ripercorrendo la carriera di Maria Teresa De Filippis. Ecco, per te com'è scattata la passione per i motori? È stato subito amore a prima vista? Diciamo che qualcosa nel sangue avevo sicuramente grazie a mio padre, che è stato pilota negli anni 70, anche se in realtà non ho mai seguito le sue gare, a parte che non ero ancora nata, e poi ho fatto tanti sport nella mia vita tranne quello, perché non immaginavano che mi sarebbe piaciuto. Quindi è iniziato quando ho preso la patente, quando mi sono messa in macchina, ho visto che mi piaceva guidare e che mi piaceva andare veloce, per cui poi ho fatto un corso di guida sicura per fare in modo che capissi insomma un po' i pericoli che correvo, invece l'ho fatto con un pilota che poi ha convinto mio padre a farmi correre, e quindi sono entrata in un mondo totalmente sconosciuto e dopo poco ne sono diventata totalmente dipendente, quindi poi eccoci qua. Beh, direi una carriera che sta continuando e con ottime prospettive. Ora prendiamoci qualche istante di pausa, poi vi aspetto di nuovo qui a Olimpia, Miti e Verità dello Sport. Olimpia, Miti e Verità dello Sport. Ancora qui a Olimpia, la città dello sport, per rivivere insieme la parabola di Maria Teresa De Filippis, la prima donna pilota della Formula 1, da poco scomparsa all'età di 89 anni. In mia compagnia Gianni Cancellieri, storico giornalista sportivo di motori, e Michela Cerruti, pilota nelle categorie AutoGP e Formula E. Ecco Gianni Cancellieri, a proposito della De Filippis, è vero che nelle qualificazioni del Gran Premio di Monaco del 1958 si tenne dietro anche un certo Bernie Eccleston, allora giovanissimo pilota? Sì, c'era appunto quella figurina, c'era Eccleston. E lei aveva questa macchina che insomma non proprio su un circuito così difficile, perché le macchine non erano docili come quelle di adesso, insomma adesso non hanno solo molta potenza ma fanno molto quello che vuole chi le guida, allora ci volevano delle abilità, della manualità molto speciale, non so, dico, il cambio era fra le gambe, l'acceleratore era al centro, insomma c'era veramente da impegnarsi moltissimo, non solo per tenerli in strada, ma in un circuito tortuoso come Monte Carlo, da impegnarsi al limite proprio per fare le curve in modo più veloce possibile, e lei fece questo, ma non bastò, ecco, insomma non era sufficiente. Poi tant'è che poi esordì successivamente nel Gran Premio del Belgio, pista dannata, allora era una pista veramente da togliere il fiato, e 14 chilometri e non 6 o 7 come adesso, e lì fece mi pare il decimo posto. Poi fece alcune corse di mondiale come Portogallo e come Monza, qualcun'altra non valevole per il campionato del mondo, si facevano molte di quelle corse lì, allora fece il Daily Express Trophy, anche lì ruppe il cambio, insomma un po' un calvario, ecco. Invece di finire in crescendo ebbe la disavventura di finire in calando, anche non certo per causa, per colpa sua. Ecco Gianni, raccontaci però che Formula 1 era quella di fine anni 50 e quali i suoi campioni? Era una Formula 1 bella e fascinosa e pericolosissima, perché si morivano come mosche questi tipi, correnti. E non insomma adesso prendono delle botte allucinanti, li vediamo e tremiamo se vediamo che non si muove subito dopo un impatto il pilota, e invece 99 casi su 100 per buona sorte non gli succede niente, allora la botta poteva essere fatale ad ogni corsa. E quindi possiamo cominciare da Fangio, che non è certamente uno qualsiasi, e che la stimava, pare sia stato lui a chiamarla pilotino per la prima volta, no? Questo non lo so per certo io. E Luigi Musso, con cui lei ebbe anche una storia d'amore, e furono fidanzati per un certo tempo, poi la cosa rientrò, e poi niente, c'erano i due fratelli rivali Hawthorne e Collins, gli inglesi, c'era Jean Berat che era suo amicissimo, ed è stata proprio la morte di Berat nel 59 a farle decidere di smettere. Ecco, pochi mesi prima di morire, il campione automobilistico francese Jean Berat. Lo sport dei motori aggiunge una vita all'altra con un ritorno tragico. Eppure i campioni vanno quasi indifferenti verso il loro destino. 3 volte era stato in fin di vita, 3 volte era tornato alle gare. Eccolo nella sua ultima sosta a Modena, quando ancora correva per la casa di Maranello. La velocità era la sua vita, la velocità è stata la sua morte. Disse basta e smise, no? Senza pentimenti, andò a vivere in Austria, dove ebbe una figlia, Carola, che le ha dato poi 2 nipotine, Francesca e Claudia, mi sembra. E poi è tornata in Italia verso la fine del secolo scorso e si è occupata e si è avvicinata al mondo dell'automobilismo storico, sia perché era diventata presidente del registro Maserati, casa a cui era stata sempre molto fedele, eccetera, sia perché era vicepresidente di un'altra istituzione, il Club degli Ancien Pilotes del Grand Prix, carica che reggeva con molto stile, molta grazia. Michela Cerruti, abbiamo sentito dalla voce di Gianni Cancellieri quanto sia stato duro per la De Filippis farsi largo nel mondo dei motori. Lo è ancora oggi per voi donne? Ci sono sicuramente dei vantaggi che sono legati alla visibilità. Detto ciò, incontriamo le stesse identiche difficoltà che incontrano i ragazzi, forse anche di più, nel senso che guadagnarci il rispetto degli altri piloti, proprio anche degli addetti ai lavori, nei team, quando corri per qualcuno, con qualcuno, è molto difficile che ti diano lo stesso valore che danno a un pilota uomo, è molto difficile che si fidino e che pensino che tu possa andare veramente, veramente forte come un uomo. Questa è una situazione che io ho incontrato negli ultimi 6 anni, direi il 95% delle volte, quindi sicuramente non è facile, non siamo mai in una posizione facile. Però sì, forse per cercare uno sponsor un po' di aiuto c'è. Gianni Caccellieri, ma le donne possono guidare, secondo te, le Formula 1 di oggi? Io credo che le donne possano guidare altrettanto bene come gli uomini. Poi la velocità è un altro discorso, lì c'è una parte istintuale, c'è una parte nativa che sulla quale non si è mai indagato abbastanza forse, e poi la possibilità di allenarsi e di progredire. È difficilissimo guidare una Formula 1 di oggi, è facile nel senso che è facile ottenere delle velocità, soprattutto in curva, che una volta si sognavano, ma tutti quanti. Peraltro le donne che hanno corso in Formula 1 o non soltanto, successivamente sono andate più forte di Maria Teresa, ma perché i mezzi sono diventati ben diversi, insomma, cioè, donne che hanno vinto gare del campionato americano, della Formula Indy, non lo so, anche in altro settore, Michel Mouton che ha vinto dei rally di campionato del mondo, quindi personaggi di assoluto spicco, insomma, niente da dire, insomma, che sono donne, c'è scritto sulla carta d'identità, ma sono piloti che vanno, sono andate e vanno fortissimo. Michela, sei d'accordo? Assolutamente sì, fisicamente non è assolutamente quello il problema, né abbiamo altre componenti mentali piuttosto che fisiche che ci possano impedire di guidare una Formula 1 oggi. Guidare una Formula 1 oggi è difficile per chiunque, purtroppo è un mondo in cui meritocrazia ce n'è un po' poca. Io credo che se avessero davvero voluto una donna, a parte che ne avevano una lì che adesso ha smesso di correre, che è Susie Wolf, ma avessero potuto farla diventare titolare, credo che se Ecclestone avesse voluto non ci avrebbe messo molto. È difficile per tutti perché ti devono andare bene tante cose, devi avere un sacco di soldi, devi avere le conoscenze giuste, sicuramente devi avere talento, però è chiaro che ci sono parte della griglia di partenza della Formula 1 oggi, sicuramente non è lì solo per il talento, quindi è difficile per tutti, ma non c'è nessuna questione fisica che ci possa impedire di guidarle. Ma se dovessi sognare un gran premio di Formula 1 da vincere? Ma guarda, sicuramente se dovessi sognarne uno sognerei Spa, perché secondo me è un posto molto speciale, è uno dei circuiti più belli del mondo. Non ho mai coltivato il sogno della Formula 1 io, perché in realtà sono arrivata da un'altra realtà. Io ho iniziato molto tardi, con le ruote coperte, quindi il mio sogno è sempre stato il DTM, il mio sogno e il mio obiettivo è sempre stato quello del professionismo, quindi di riuscire a fare di questa passione un lavoro, e soprattutto per come si è svolta la mia storia e le corse che ho fatto, le macchine che ho guidato eccetera, non credo sarebbe mai stato possibile che io arrivassi in Formula 1, anche perché, ripeto, è veramente tanto difficile. Quindi ho cercato di puntare a diventare professionista e magari a cercare di avere un posto con una casa automobilistica, insomma un altro tipo di obiettivo. Chiaro che quando ho guidato un Formula è normale pensare, no, che il sogno è quello di guidare il Formula che va più forte di tutti, e quindi la Formula 1. Però diciamo che ho iniziato con una mentalità un po' diversa rispetto ai piloti che iniziano quando sono piccoli, hanno proprio quel sogno, quell'obiettivo. Obiettivi stagionali, Michela? Guarda, intanto trovare un sedile, però, perché come ti dicevo prima, non è sempre molto facile. E io non so ancora cosa farò quest'anno, non so ancora quale sarà il mio 2016, ci sono delle cose in corso, ma sono molto, molto, molto embrionali, quindi per me è difficile dire cosa ne sarà di me. Sono arrivato da una stagione con BMW Motorsport nel VLN, quindi sul Nürburgring, sul vecchio Nürburgring, quello lungo il Nordschleife, che è stata bellissima e piena di buoni risultati, però non so ancora quale sarà il mio futuro, non so se ci sarà un futuro con BMW o magari con qualcun altro, quindi primo obiettivo è trovare un sedile, un buon sedile in un contesto magari internazionale, magari nelle gare di durata, che poi sono quelle che mi piacciono di più, sono la mia grande passione, le 24 ore, magari Le Mans, ecco, io vorrei riuscire a fare la 24 ore di Le Mans prima di smettere di correre, di sicuro. È quello che ti auguriamo. Prima di salutarti ti chiedo ancora, qual è l'eredità che ha lasciato Maria Teresa De Filippis secondo te? Ma io credo che l'eredità che lei ha lasciato siamo noi, nel senso che lei ha iniziato qualcosa che sembrava impossibile, qualcosa che ancora ad oggi comunque è considerato è considerato un po' così inusuale, un po' poco accettato a volte, per cui io nella mia mente non posso che ringraziare il coraggio che ha avuto lei, perché lei è stata solo la prima da cui tutte noi abbiamo preso esempio, anche quelle che sono arrivate poi subito dopo di lei, e adesso ce ne sono tante altre, magari più piccole, che stanno prendendo esempio da noi, che stiamo correndo adesso. Quindi lei ha iniziato tutto questo, quindi mi verrebbe da dire che forse se non avesse iniziato a correre lei, in questo momento non staremmo correndo neanche noi. Michela Cerruti, grazie per essere stata oggi ospite di Olimpia, la città dello sport. Grazie a voi davvero e buona giornata. E grazie di cuore anche all'amico e collega Gianni Cancellieri. Bene, sono contento io di esserci stato e arrivederci. Olimpia, miti e verità dello sport. Tutte le puntate sono disponibili sul sito internet radio24.it.